sia Salvatore che Federico nella loro narrazione trascorrono la loro, diciamo così, parte di vita, ognuno partendo dal proprio anno, diciamo così, parlando di elementi e di storie molto vicine tra loro. Dentro Quando il fumo si dirada e dentro Tutti suoneranno il gong c'è un racconto di un pezzo di storia di Roma, di alcuni anni di Roma. In parte c'è anche il trascorso di vita che da Roma arriva nella Maremma. Insieme a questo c'è un'analisi su questi anni, su quello che era la società romana di allora, su quello che sono le spinte culturali che stanno all'interno delle dimensioni di allora e di come lo stare insieme in questo momento un po' particolare, diciamo così, sempre attraversato anche da una ricerca della costruzione di comunità nei momenti in cui magari dobbiamo stare un po' distanti, però allo stesso tempo con un filo conduttore che è quello di trovare una risposta e sentirsi ancora, diciamo così, energici dopo molti anni. Ci è piaciuto presentare questi due libri insieme perché sentivamo che all'interno di queste due esperienze passano eventi e passano anche dimensioni molto vicine tra loro, non solo perché si parla di Roma, ma perché molto probabilmente anche lo sguardo di ciò che si racconta è uno sguardo attento e curioso a quello che sono stati gli eventi di allora, ma allo stesso tempo anche curioso rispetto a ciò che si muove oggi all'interno della società. Io vi lascerei la parola per questo colloquio, che poi vuole essere anche una dimensione più allargata di ragionamento. In termini colloquiali, magari io faccio un'introduzione, magari faccio delle brevi osservazioni aspettandomi che Federico, o Ferindo, magari interloquisca e dica le sue cose. È vero, sono universi simili, ma sono universi anche profondamente diversi, quelli che racconta Federico e quelli che racconto io, che appartengono non solamente a stagioni temporali diverse, stessi sui luoghi, stesse sulle passioni, stesse la tensione che ci sta sotto, ma a condizioni, attenzioni storiche del tutto diversificate, che in alcuni momenti l'hanno fatta anche diventare conflittuali queste due realtà. E io invece credo, ho sempre creduto, che siano molte di più le cose che poi alla fine ci uniscono in relazione con la vita, con le idee, con le aspirazioni, col senso delle cose, che non quelle che poi magari ci hanno anche diviso in alcuni passaggi. E la differenza più grande che io ho pensato di individuare, poi dire anche lui se concordo o meno, è il fatto che io che comincio a parlare, vabbè, dal 57, per l'infantile quello non conta, ma dalla stagione del 68, ho vissuto gli anni 70, che sono stati anni in cui si andava nelle piazze, nelle manifestazioni, ugualmente dure come magari quelle successive, ma scandendo slogan della serie fascisti borghesi ancora pochi mesi, in cui c'era l'idea che quella grande esplosione di movimento potesse proliferarsi autonomamente, occupare gli spazi che era necessario occupare per cambiare la realtà. Negli anni Ottanta invece c'è già stata una delusione. Questa aspirazione, questa idea della proliferazione del movimento, dell'occupazione di tutto, non c'era più. E io, parlando un attimo al telefono con lui, la voglio datare, questa separazione, questo e gli altri, perché secondo me è stata proprio nel 1980, la famosa manifestazione dei 40.000, che poi si è mai saputo se che 40.000 o Visselama che erano 40.000. Tra l'altro aumentando inspiegabilmente la dichiarazione che fecero gli stessi organizzatori, che hanno detto 30.000. Ma Visselama avrebbe dovuto dire no, 20, invece stranamente disse 40. E la questura, che conta poco, erano 12.000, insomma, ah. Però vabbè, questo è piuttosto relativo. E quella manifestazione segnò un punto di arresto, soprattutto della componente fondamentale che aveva tenuto insieme il 68, che era quella dei lavoratori, che, in cui si esaurisce una spinta che era stata estremamente radicale, con ottenimento di riforme, anche di un ruolo in fabbrica che era sempre più importante e che metteva in discussione non solamente la rivendicazione salariale o la rivendicazione sindacale, ma che attaccava la società costituita su gangli che erano i tagli importanti. Beh, quella cosa si ferma, poi chiaramente ci sono stati anni in cui si continua a dire le stesse cose, altri che si erano, come dire, magari avevano avuto una soluzione precedentemente, ma quello può essere l'elemento simbolico, e che nel movimento dopo invece l'esigenza non era stata più quella di, o l'idea di occupare il cielo con le masse che si moltiplicavano, ma quella di resistere. Di resistere e di trovarsi degli spazi di liberato, di liberazione rispetto all'aggressività restauratrice. E questo è, secondo me, l'altro versante, quello che racconta. I luoghi sono gli stessi, a volte sono anche le persone sono le stesse. Io nel suo racconto ci ho trovato cose che, in qualche modo, anche se di sfuggita, ho vissuto, no? Però è stata una temperie del tutto diversa. Questi due universi non si sono parlati. Perché mentre quelli da immaginazione hanno continuato a pensare alla teoria della trasformazione, cioè a mettere al primo posto una ricerca scientifica, poi scientifica è una parola grossa, ma insomma si fa per capirsi, di come si poteva ancora cambiare il mondo attraverso la politica, all'idea invece della mobilitazione, dell'antagonismo, cioè del rifiuto della realtà che ti veniva imposta e della ricerca degli spazi. Il portato che a me è sembrato più ricco, ma questo credo che lo dica anche lui nel libro, più ricco di questo pezzo di storia, è che in questi spazi liberati, lì in quegli spazi è stato possibile inciampare in eventi negativi. Molte della nostra generazione si è perduta dietro ai buchi, dietro alla roba, però dentro quegli spazi liberati c'è stata pure una capacità di fermento culturale che secondo me va rivisitato e va rivisto, rivisitato, rivalutato proprio. E da questo punto di vista il lavoro che ha fatto Federico a me sembra importante anche dal punto di vista storico. Discutiamo di libri, no? Sì. E a me il libro di Federico mi è piaciuto anche in quanto libro, non indipendentemente da questo ragionamento che è interessante, che secondo me dovrebbe richiedere non solamente un incontro, ma tanti incontri per approfondire, per capire, per ricucire pure alcune cose e alcuni strappi che ci sono stati. A me è piaciuto anche come libro, perché è un libro originale. La prima originalità è che lui fa un libro biografico in terza persona, quindi c'è un elemento di estraneazione tra quello che racconta e il fatto che poi invece racconta di se stesso. Uno, se non lo capisce subito, dice: ma Federico e Federico sono la stessa persona o lui racconta di un'altra persona? Ma l'aspetto centrale, secondo me, è che lui non fa ragionamenti, e io invece purtroppo sono schiavo dei ragionamenti, delle valutazioni. Lui è come se muovesse dentro il corso degli eventi, che è lungo perché è un breve periodo, una lente di ingrandimento che piano piano passa su tutti quanti e te le fa vedere con precisione, poi lo fai te il ricollegamento. Da questo punto di vista, che ho detto, forse ragioniamo, no? Che mi è venuto in mente un po' un Roald de Kerouac, no? Lui racconta praticamente questa dimensione non storicizzata, dinamica, capito? Ma così, in cui si vede la realtà, si racconta quello che sa è e si lascia alla realtà la possibilità di dire cose, di avanzare significati. Quindi mi è piaciuto, anche se dico di verità, mi è piaciuto dopo le prime 340 pagine, perché all'inizio mi è piaciuto, perché dentro questa dimensione qui ci devi entrare. E io ho sofferto anche di più entrarci, perché c'è un vizio, che è quello di cominciare a leggere i libri dalla fine. A me non mi riesce ad aprire il libro di cominciare dall'inizio, un po' perché forse ho l'ansia di sapere come va a finire, per cui insomma, uno sa di solito, il cavo da venere non si dice, no? E il messaggio, la cosa più importante, sta all'ultimo, quindi c'ho l'ansia di vedere che è. E invece in questo caso no, non funziona, non funziona così. Per riuscire ad apprezzare da subito il modello narrativo bisogna leggere il primo pezzo, perché se no si fa. Io invece l'ho letto dopo, quindi per chi lo leggerà, se c'è lo stesso mio vizio, mettetelo da parte e comincerà a leggere dall'inizio, perché tutto viene più facile e più piacevole. Simone quest'estate mi ha dato il tuo libro, mi ha detto dai un'occhiata a questo. E in effetti mi ha interessato subito, perché anche questo è un libro autobiografico. Poi leggendolo mi è venuto in mente questo confronto possibile, perché comunque si parla di due generazioni, si parla di metropoli e si parla di provincia, perché la tua dimensione ha passato molti anni in Maremma. Si parla di partito e si parla di autogestione. Hai fatto tutto un percorso interno al partito e alle sue varie anime, scissioni, cosa che io non ho mai fatto. Io ho cominciato con l'autogestione proseguendo su quel cammino. Per esempio c'è un momento cruciale nella storia di questo paese che è stato Genova e che curiosamente tu hai vissuto in piazza, io all'ospedale, perché mi ero già rotto da solo non sono potuto andare. Sai che cosa è vero? La cosa che ho apprezzato tanto del tuo lavoro è quella purezza che ti ha guidato sempre. La politica vissuta proprio come mettersi al servizio di una causa, di un'idea, che c'entra poco poi con la politica appunto dei partiti e delle loro dinamiche. Ed è lo stesso spirito che ha guidato me, perché io poi non ho avuto maestri. Mi sono, come scrivo anche nel libro, per curiosità mia personale, ho cercato i miei riferimenti culturali e ho fatto il mio percorso a partire, ecco, tu parlavi del 1980, che è stata una data di passaggio cruciale per questo paese. Se io ripenso al movimento dei ragazzi dell'85, che è quello contro la riforma della Falcucci, è un abisso. In pochi anni c'è stato veramente un cambiamento epocale. I ragazzi dell'85 non hanno lasciato nulla, è stato un momento molto fatuo. Eppure lì ho mosso i primi passi, che poi mi hanno portato nel 1990 al movimento studentesco della Pantera. Poi chiaramente c'è stata anche la stagione, tu dicevi, degli anni 80, quelli sono stati, insomma, hanno segnato il passaggio che poi ha portato a tutto il decennio degli anni 80, quello dell'edonismo, di tante cose negative, ma anche di tante esperienze positive. Gli anni 80 in Italia sicuramente sono stati segnati dalla diffusione dell'eroina. E i centri sociali, che hanno cominciato la loro esperienza intorno alla metà degli anni 80, hanno costituito un argine a questo deterioramento del tessuto sociale. E io ho cominciato a frequentare anche nelle serate musicali questi spazi. Poi la Pantera è stato all'Università La Sapienza a Roma come un enorme centro sociale. Ogni facoltà aveva il suo spazio, aveva il suo bar, faceva le sue iniziative, poi c'erano anche le iniziative centrali che coinvolgevano tutto l'Ateneo. Però è stata una dimensione ricchissima e da quel momento in poi ho detto, io che vengo da un quartiere in quegli anni era piuttosto anonimo e anche molto borghese, Monteverde, ho sentito l'esigenza di avere un centro sociale nella mia zona e quindi non avevo fratelli maggiori, quindi ho dovuto costruire tutto da solo. Ho messo in piedi un collettivo tra le varie conoscenze a scuola, nei luoghi di socialità della zona e da lì è partito tutto. Come riferimenti chiaramente c'erano il passaggio, tra virgolette, del decadimento del movimento dell'autonomia operaia dopo la stagione del 77, però i primi centri sociali a Roma erano di quell'area. Radio Onda Rossa, che dava voce a tutte le mobilitazioni, era nata come voce dei comitati autonomi operai nel 77 e quindi c'è quella matrice. Però poi abbiamo sviluppato, insomma, un percorso tutto nostro. Io credo che i centri sociali in città, a Roma, a partire da quello mio a Scatasuna, a Monteverde, quindi quelli della seconda generazione, dagli inizi dei 90 in poi, siano stati un laboratorio importante di autogestione che ha determinato anche un movimento culturale importante. Gli va riconosciuto questo, a questo movimento, che un po' sull'onda di quello che fece l'autonomia operaia, che non voleva la presa del potere, voleva costruire un altro potere, a partire dalla base. Noi poi abbiamo sviluppato l'autogestione e da lì ci siamo mossi. È uscita recentemente un'antologia che si chiama Detonazione, che raccoglie i vari aspetti che hanno contraddistinto Roma nel decennio degli anni 90. E ti rendi conto, leggendo, è un volumone con contributi vari, e ti rendi conto che dalle riviste alle radio, ai rave, al cinema, al teatro, il Laboratorio Roma è stato importante, direi, a livello europeo, ha prodotto veramente tanto. E quindi sicuramente è una storia di tante sconfitte, però, lo spiego anche tra le pagine, ritengo che siano fondamentali più che i risultati, le esperienze fatte che determinano poi un vissuto non solo personale ma collettivo, e qui anche la scelta della terza persona nel raccontare. L'ho scelta, mi è venuta quasi subito come scelta, perché comunque è una storia attraversata da migliaia e migliaia di persone e io sono solo un piccolo tassello in questa storia più grande. Sì, un altro elemento che un pochino mi ha alluzzato, se dice, diciamo, quando ho letto questo libro, è stato che un pezzo della mia vita, diciamo così, politica, non è dentro Tutti suoneranno il gong, e forse proprio per quell'elemento di conflittualità che c'era tra i mondi, per cui ho saltato un pezzo della mia storia politica, che è stato il Tiburzio Grosseto, cioè l'esperienza dell'occupazione del Tiburzi, quello che lì si è cercato di fare, le sconfitte che ci sono state, quello che l'aveva preceduto, un po' Corrado il Brigante Tiburzi, che un po' le dimensioni, le cose, poi dopo si riproducono. E che è stato un pezzo che secondo me anche lì dovrebbe essere recuperato, più che dal punto di vista filologico, noi abbiamo fatto grandi cose, salvo il grande concerto con i 99 posti, che credo sia rimasto nel cuore di tanti, è che si è dispersa quella comunità, cioè non ha sedimentato poi la capacità di un legame. Però noi in qualche modo questa roba la dobbiamo trasformare in ragionamenti consapevoli, in atti definiti, perché quella è una realtà che un po' essere, secondo me, dimenticata, non si può disperdere, che è stato uno degli avvenimenti che secondo me hanno attraversato la vita piuttosto tranquilla di una città di periferia come Grosseto, con un elemento dirompente, che è stata la storia del Tiburzi con la sua occupazione, con il suo sgombro, non ricordo la professione, e con la sua transumanza, perché poi quando ci buttavamo fuori c'eravamo un compagno che faceva un po' d'antiquariato, c'era un camion vecchissimo, alto, caricavamo tutta la roba lì, andammo a Cuba, un altro localetto, una casa cantoniera, per mantenere comunque il fuoco acceso della roba, dopo il tentativo fallito invece di occupare il mattatoio. E quella roba poi è scomparsa, si è dissolta nella vita delle persone che non hanno più avuto la capacità di ritrovarsi quel bel senso che invece la roba aveva. E secondo me quello va recuperato. Non so come io potrei fare una operazione del genere, perché quella generazione, quelle cose, quello che lì siamo riusciti a fare, secondo me manca dentro oggi la percezione di Grosseto, la tua percezione di questa città, di quello che è stato. E quindi dovremmo tentare di ritirarla fuori, per cui anche per questo era un altro elemento che dicevo, guarda, questo è un confronto, un discorso che ci può servire, capito, per recuperare qualche cosa, perché nulla vada per tutto. Stavo ripensando adesso alle sconfitte, ma anche a tanti passaggi importanti e storici, ad esempio il processo Prip, che a metà degli anni 90 si tratta di uno degli ultimi criminali nazisti processati. Ho seguito per Radio Onda Rossa quel processo, dando vita anche a una trasmissione sulla memoria storica coadiuvata da due importanti partigiani della Resistenza romana, che sono diventati interlocutori abituali. C'è stata poi la sollevazione per la sentenza che avrebbe rimesso in libertà Priebke, se non fosse stato per il nostro lavoro che ha richiamato lì al Tribunale Militare a Viale delle Milizie a Roma compagni e compagne del movimento antagonista, oltre alla comunità ebraica che era all'interno invece dell'aula. E se non fosse stato per quel momento cruciale, la storia sarebbe stata un'altra. C'era già un aereo pronto per portare via Priebke, e invece quella notte Priebke è rimasto dentro il tribunale. C'è stata una richiesta di estradizione dalla Germania, che all'indomani ha portato al mandato di cattura, quindi Priebke è rimasto, e poi si è aperto il secondo processo nell'aula bunker di Rebibbia. Però quello è stato un passaggio epocale, direi, perché a livello internazionale ha significato tanto, perché poi ha cambiato anche la giurisprudenza, perché si è stabilito che non esisteva più la prescrittibilità per i crimini di guerra e soprattutto la responsabilità individuale. Nel processo a Kappler tutti i suoi pari grado furono assolti perché obbedivano ad ordini. Così non è più adesso. Chi obbedisce a ordini risponde davanti alla giustizia, insomma. Io a questo punto vi voglio raccontare un episodio, anche per buttarla un po' sul ridere, perché io credo che la risata sia la cosa più bella che si possa fare nella vita. Certo. E io sono convinto che probabilmente in mezzo a qualche fumo di lacrimogeni, senza saperlo, ci siamo trovati, a volte io pure su sponde diverse, e a volte anche magari su parallele, magari parallele, in modalità diverse. Mi ricordo una volta Perché te l'hai citata una manifestazione a Piazza Garibaldi davanti alla statua di Gioacchino Belli. Io stavo a Maremma oramai dal 71, però il 12 dicembre andavo a Roma, se c'era una manifestazione andavo a Roma, quindi ho continuato a mantenere relazioni con quel mondo per diverso tempo. E io non mi ricordo se era l'occasione di un congresso nazionale del movimento sociale con l'Alleo, non me lo ricordo se era quella l'occasione, però mi ricordo che c'era questa manifestazione a Testaccio, poi a Piazza Gioacchino Belli davanti al Ponte Garibaldi. E io, siccome c'avevo questa modalità che per Luciano buttasse in mezzo nei punti più caldi, ero in prima fila, tra l'altro, con una serie di ragazzini. Tutti c'erano 15-16 anni, con le stagne, con i bastoni, i manici dei picconi, erano poi sostanzialmente con le bandierette rosse. Io, in mezzo a questi ragazzetti, che ero più attempato, cioè avevo avuto una decina d'anni di più, non quello che ci separa noi di più, ma insomma una decina d'anni di più, lì. E a un certo punto, quando si arrivò di fronte al movimento di Gioacchino Belli, non è che io sapevo che si doveva fare, c'era, come dire, una consapevolezza di quello che sarebbe successo. Qualcuno cominciò a tirare un po' di bottiglia alla polizia che era schierata sul ponte e cominciarono le cariche, cominciarono gli scontri. E lì si sparpagliò questa prima fila che era di ragazzini senza esperienza. Io mi ricordo un compagno, un bassetto, uno con capelli bianchi, allora era di me che urlando resistenza, compagni, resistenza, sì, e si andò verso il Testaccio, no? Che per Roma il Testaccio è una zona, come dire, popolare, dove sei tranquillo, tutelato. Allora ci si infilò tutti in questa resistenza, barricate, barricate, intanto c'era questo casino di lacrimogeni, di fumo, di botti, e si tentò di spostare la macchina per non far passare la polizia, e si affacciò una, mi ricordo, una donnona, lasciò stare la macchina al mio figlio, scese e cazzato una iena e l'ambiente popolare che doveva tutelare la sommossa proletaria in qualche modo ci fece più paura la donna della polizia, perché ci cacciò via tutti, e io riuscì a infilarmi, a attraversare il Lungotevere, a infilarmi sotto proprio prima che chiudessero, e quella fu una di quelle volte che ripassarono un po' tutti. E quella è stata la mia ultima, la racconto e me la ricordo bene perché è stata la mia ultima partecipazione dopo Genova, insomma, beh, Genova è stata tutta un'altra cosa, e lì Genova, io non lo racconto che cosa è successo, ma lì ecco quel modello. Poi finì anche perché questo fatto di non sapere che succedeva, di essere in balia di decisioni che comunque erano di atti che erano innescati da altri, che lì conoscevano, certo. Lasciamo perdere, che non è il caso. E così non ci tornai più. Io credo che fosse proprio all'inizio degli anni Ottanta questo episodio qui. Per due elementi che stanno dietro al libro e al racconto del libro e che in qualche modo riescono pure a tirarlo fuori meglio. Le città per come cambiano e anche il cambiamento di città. Federico vive a Roma tutta la sua esperienza e in questo vede la città che cambia, la città che cambia dal punto di vista culturale, la città che cambia dal punto di vista dei luoghi e della sua aggregazione sociale. Per te oggi Roma, quanto è cambiata e come è cambiata? Sicuramente è un segno anche più ampio. E invece per Salvatore, invitandolo magari a leggere un pezzetto del suo libro, l'arrivo da Roma alla Maremma, e diciamo così, il diverso fervore pure che passava da una dimensione, diciamo così, metropolitana a campagnato, insomma, pur amandolo e volendolo bene, era un piccolo paesino messo lì dove, diciamo così, cambiava totalmente la proiezione rispetto a quello che era, diciamo, non tanto la visione del mondo che ognuno ce l'ha per sé e se la porta dietro, però rispetto pure agli usi e le consuetudini di una dimensione collettiva di voler cambiare il mondo. Beh, sicuramente la città è cambiata tanto, già a partire dagli anni Ottanta, come si è trasformata velocemente in tutti i 90, che è stato il periodo più cruciale, quello in cui ho fatto veramente tante, tante esperienze. Già lì c'era stata una notevole cesura. Adesso devo ammettere che non ho più quel polso della situazione. Per molto tempo, diciamo dalla metà degli anni 90 fino a un paio d'anni fa, la mia dimensione era soprattutto Radio Onda Rossa e quindi era la realtà che dava voce a tutto quello che succedeva in città, ma sempre un po' filtrata da un microfono. Gli spazi sociali autogestiti continuano a esistere e a proporre cose molto interessanti dal punto di vista culturale e sociale, però sono cambiate anche le generazioni, sono cambiati anche i bisogni e i desideri. Sarebbe più opportuno dare magari la voce a loro, sentire loro. Io non faccio più la militanza che facevo anni fa, quindi la mia dimensione è molto territoriale. Ho la mia libreria, ho le due trasmissioni in radio. La sera magari posso andare a iniziative in qualche spazio sociale, però ecco, mi manca un po' il metro, il termometro. Di cosa pensi oggi un giovane, come viva? Sicuramente c'è molta meno massa. Prima, negli anni 90, facevamo le cose ed erano decine di migliaia di persone. Facevi un'iniziativa in un centro sociale, bastava che lo annunciavi il giorno prima per avere comunque la gente. Adesso è diverso, non muovono più le folle, le iniziative politiche. Io penso, parlo per me, ma sono convinto di parlare anche con Federico, che poi quello che ci tira, che ci ha fatto oramai, lo possiamo dire, vivere in una vita intera, c'è ancora un altro pezzo, ma non credo che sarà molto diverso da quella che hai passato precedentemente, è una sorta di umanesimo, cioè l'amore per l'umanità, per la gente, per le persone, accompagnato poi non è un amore neutro, è un amore sostenuto dal sentimento di giustizia, ma è un amore per la gente, quindi se vai in campagna vuoi bene a contadini, se vai a fabbrica vuoi bene a lavoratori, se vai da un'altra parte vuoi bene a quelle persone. Per cui è abbastanza semplice trasferire la propria volontà di mobilitazione, il proprio modello di fare politica, se c'hai questo sostrato, insomma questa cosa sotto, cioè l'amore delle persone e dell'ambiente, la città alla campagna. Ora se uno mi dice di leggere una cosina, non lo so, io a Campagnatico, quando mi sono trasferito da Roma a Campagnatico, veramente ho cambiato il mondo, ho passato una frontiera conoscendo un mondo di cui non sapevo l'esistenza, ho dovuto ridefinire un pochino tutto, le reazioni, i modi, però il Campagnatico mi è rimasto nel cuore, perché quel modello di vita in cui c'è a volte anche una relazione spigolosa delle persone, perché nei piccoli paesi non ha licenze, le invidie ci sono, però non c'è nessun anonimato, cioè sei immerso dentro la comunità del luogo dove vivi, e questo è un aspetto che invece nelle grandi città, che la modernità ci ha tolto e che in qualche modo invece il centro sociale ti ridà, anche se l'universo una comunità piccolo, ricostruisce una comunità, lì ce l'hai, una comunità in cui poi dovevi spendere. Allora io ragiono su Campagnatico, su qual è la politica nei piccoli paesi, noi non dico lì non facciamo mica l'attacchinaggio selvaggio, come partivamo così, c'è la roba, e incartavamo un quartiere intero dove si poteva fare, perché c'avevi dei posti dove potevi andare, zone dove non potevi andare, e lì dovevi stare nello spazio, dovevi stare le regole. La campagna elettorale la facevi con le liste elettorali in mano, no? Leggevi questo con l'altro, quell'altro no, con questo bisogna parlarci, insomma. E poi dopo, quando avevi fatto il conto, dicevi vabbè, questa volta si è pigliato 8 voti, poi te ne mancava sempre qualcuno, era sempre qualcuno più, perché qualcuno nell'urna ha preso, magari se lo dico qui, si buttava a sinistra come Totò, no? Però non lo diceva, c'aveva una certa circospezione nel confrontarsi con quello che era il potere costituito, che era comunque la società non comunista, no? E c'erano poi queste manifestazioni. Una delle cose che io rimpiango di più era il maggio, noi facevamo il maggio era un atto politico fondamentale. Che quando tu ti trasferivi dalla città, andavi nel paese, da dovunque tu fossi venuto, era quasi la ritualità che ti accoglieva, era il rito di iniziazione, dovevi passare il maggio, perché se ne hai fatto il maggio non potevi diventare di Campagnatico. E il maggio non era solamente andare a prendere la pianta e il leccio da 10 metri, da 8 metri dentro la macchina, allora se ci pigliava forestale c'erano 10, però si faceva, allora il mondo era un po' diverso da quello di oggi, ma era anche la sbornia. Si rimediava delle botte terribili, si partiva la sera col pulmino, si faceva tutta la settimana di prove, due strofe nuove accanto al maggio, e ogni potere dovevi andare, e questi ti offrivano quello con la generosità dei nostri contadini, ma credo che tutti quanti i contadini, tutte quelle cose migliori che c'erano a casa, il vino buono, la salsiccia, le prime volte era cenare, perché sapevi che era una bella prova, che mangiavi le voglia, poi la seconda, la terza, la quarta, e non potevi rifiutare, perché quando davano qualche cosa e gli dicevi di no, si offendevano in modo terribile. Quindi dovevi mangiare fino a che la mattina, poi si faceva luce, arrivavi al potere con queste stradine tutte scassate e cominciavi a vedere le finestre, le luci accese, no? Allora c'era il capoccia, che la moglie aveva già messo il caffè, messo il mocone, e col cognac 3 stelle ricominciava a cambiare il menù, no? Però sempre a base alcolica, ricominciava dal caffè corretto, e il 3 stelle, e il dolcino, e ripartivi. E arrivavi così fino a che tornavi alle 9, con questi panieri pieni di roba, per fare, dicevo, i panieri, dice, facevi la distribuzione il giorno dopo, no, tornavi a riposo a 2 ore e dovevi fare la merenda del pomeriggio, subito, un'altra volta, con tutto quello che comporta, altre fegati, ragazzi, si sono giocati. Però, insomma, è che abbiamo resistito dentro questa modalità che forse non era proprio in linea con la salubrità, ecco, i dettami da salute pura, non eravamo salutisti, però ragazzi io ci sono stato meravigliosamente, perché stavi in mezzo al popolo, eri col popolo, era il popolo quello, capito? Con tutte le diversità. E allora ho cercato di raccontarla questa cosa, si andava avanti così e le note uscivano sempre più confuse e scordinate fino all'alba. Quando cominciai a vedere da lontano una finestra illuminata, segno che il capoccia era già alzato, e la moglie che aveva preparato il caffè ci offriva il 3 stelle o lo stravecchio con i cantuccini. Tutti al momento del saluto ci infilavano nei canestri vino, uova, salumi e baccelli, che sarebbero serviti il pomeriggio del giorno che stava per levarsi, dopo un breve sonno strappato alla mattina, per apparecchiare un'altra merenda campale fino alla sera. Ma non era tutto qui. Il giorno del 1° maggio doveva già svettare in piazza un albero sulla cui cima sventolava la bandiera rossa dei lavoratori. E non si trattava di un alberello di 3 metri, ma di un leccio di 7, 8, 10 metri che si andava a scegliere nella macchia e si portava fuori a braccia. Anche lì facevano una squadra, a cui io partecipavo con maggiore successo, viste le mie scarse qualità di canterino. Facevo spesso coppia con Tersiglione, un uomo sulla 50ina dalla mascella quadrata e dalle spalle larghe, che aveva fama di uomo forsuto. Si legava il tronco dell'albero a una specie di gioco e noi come 2 bovi a tirare fino alla strada, dove ci aspettava il camion, questo raggiungo con Rocchi, Euro, che col camion del comune che veniva a caricare l'albero. Poi giù in piazza, e la sera si rizzava l'albero accanto alla fontana quadrata con l'obelisco egiziano, come l'obelisco egiziano di Europolis, come un segno di forza e di vita, come un miracolo che aveva fatto spuntare quella pianta forte e robusta nel prevolgere di una notte. E al Campagnatico poi sono venuto in contatto con quello che in città non c'era, cioè il mondo della campagna, le riunioni del partito nei fienili, al Graione, con i compagni storici, con i compagni della creazione che venivano a fare riunioni. Io avevo 20 anni, 21, 22, mi sembravano l'Arcangelo Gabriele, quello davvero che aveva capacità taumaturgiche, che sapeva cose che tu non saresti mai riuscito a sapere, no? E quindi c'era questo aspetto proprio estremamente forte e significativo. E questa è stata Campagnati. Però Roma poi non l'ho mai potuto dimenticare, un po' perché gli appuntamenti non sono mai finiti della politica romana, un po' perché c'erano alcune cose che non potevano essere dimenticate, tra cui pure Deniano Tiziano, perché io a Campagnati mi sono convertito ai tortelli, l'ho mangiato, gli tortelli della Riotta, non sai pure Deniano Tiziano, sai pure Deniano Tiziano. Se uno cresce con pure Deniano Tiziano, quelli te li puoi dimenticare. Quindi sono rimasti un valore assoluto. Perché si intitolano tutti sono? Io sono andato a scuola dalle monache, perché nella città la scuola pubblica non era così vicina, ma c'era una compagnia a piedi, questa era una scuola delle monache, c'era solamente 5 classi, e era lì vicino casa da me, quindi mi segnavano via. Ogni giorno, quando c'era il finis, non veniva suonata la campanella, ma veniva suonato un grosso gong che era a fondo al corridoio. A turno lo suonavano il giorno la prima, il giorno la seconda, il giorno la terza. E quando toccava alla prima, la maestra, che era una monaca, ci mandava il ragazzino che era stato più bravo. era una grossa aspirazione su Astor Wong, era stupendo. E a me 5 anni mi hanno fatto la cosa. Voglio dire, io, ma cane, ma non te lo ricordo, non dico che te lo devi scrivere a chi ha fatto Astor Wong, ma ti rendi conto che in 5 anni a me che lo devono mandare a Astor Wong, e questa cosa può diventare oggettivamente per un ragazzino un trauma. Finché morte non ci separi, bisogna cominciare a continuare a lottare. La lotta è speranza. Voglio dire, se no che lotta è fatta? Non puoi lottare solamente per il piacere della lotta, che pure c'è, che pure esiste, fino a se stesso. Ma la lotta della lotta si deve pure nutrire di speranza. E io, anche se si vivono tempi bui, in cui sembra che l'orizzonte sia sempre più irraggiungibile, che tutto quello che abbiamo sperato sia sempre più lontano, io credo che invece noi dobbiamo dire a noi stessi che prima o poi ce la faremo, che prima o poi tutti quanti, pure quelli che non possono andare a scuola, potranno andarsene al GOM, come esempio di una giustizia un pochino meglio distribuita tra le persone. Questo è un po'. Rispetto a questo, Federico, secondo te oggi il ruolo della cultura, insomma, e ti sei occupato per gran parte della tua esperienza di vita della cultura, il ruolo della cultura in questo paese, anche rispetto a un'inversione di tendenza, può esserci, c'è, ci sono esperienze interessanti a partire da chi giornalmente ci mette il suo tempo e qua il Clorofilla presenta uno spazio di questo percorso. Sì. Beh, la cultura è fondamentale nei processi di trasformazione a qualsiasi livello. Per quanto riguarda il teatro e il cinema, sicuramente ci stanno un sacco di esperienze nuove che mostrano un fermento. Tornando anche alla domanda che mi hai fatto prima, ci sono comunque dei segnali. Se torniamo a pensare all'esperienza delle sardine, con tutti i limiti che ha avuto, però dimostra una capacità, una possibilità della gente di mettersi in gioco. Con un tantam sono riusciti a mettere in piazza migliaia di persone a livello nazionale, quindi la voglia c'è, va costruito qualcosa sicuramente, però insomma le potenzialità ci sono, e a livello internazionale penso soprattutto ai due casi grossi, sicuramente di Greta e del movimento ecologista internazionale, come anche alle proteste che hanno fatto seguito alla morte di Floyd negli Stati Uniti, e quindi alla questione razziale che è diventata preponderante come mai prima. Insomma, queste vi sembrano tanti segnali di una voglia di cambiamento e anche di partecipazione che sarebbero da alimentare e da strutturare in qualche modo, e la cultura in questo può giocare un ruolo fondamentale, deve giocare un ruolo fondamentale. Un'aggiunta sulle sardine, cioè che c'hanno un nome assurdo, sì. Non so, le sardine, uno dice discute del nome, però il fatto proprio che siano riusciti a costruire un movimento breve, lasciamo fare i contenuti politici, certo. Non è questo il tema, ma tra l'altro su un nome, un aggregato che puzza anche le pesce, insomma, non era gradevole, mi spiego? Secondo me ci deve dire che è possibile, e che chi vuole fare politica oggi, questi meccanismi, se non altro, se, non dico le deve conoscere, ma si deve porre l'obiettivo della ricerca, di come si fanno cose del genere. A me le sardine m'hanno tanto incuriosito da questo punto di vista, per capire attraverso quali percorsi, in parte volontari, in parte sottostanti dentro le precondizioni di massa, avevano provocato una cosa di questo tipo. Perché è evidente che ci vuole una precondizione di massa, ma io credo che alcune precondizioni di massa, di una mobilitazione di presenza, ancora ci sia. Il problema è che non riusciamo ancora noi a fare la nostra parte volontaria per attivarli, non riusciamo a innescarla, non riusciamo a dargli vinci, a dargli fuoco. E questo invece è un aspetto fondamentale di cui dovremmo interrogarci. E invece la politica, anche quella a cui appartengo, magari storce il naso perché la sente un po' strana. Il tema non è quello dell'estraneità, il tema è quello della mobilitazione, della presenza delle persone, è fondamentale, se no non fai nulla. Proprio se vuoi, così come è l'elemento della cultura, è un'idea di trasformazione dal basso. Io ho l'idea di pigliare la stanza dei bottoni, la Nenni sull'ascensore di la stanza dei bottoni, oggi giusto l'ascensore per il bottone, la stanza dei bottoni, non c'è nella società complessa un luogo di cui ti puoi impadronire per modificarne la storia. O tu parti dal basso attraverso la mobilitazione, attraverso la diffusione culturale di nuovi concetti, nuove idee, nuove modalità, o non ce la fai. Io lo so che questa è la strada più difficile, Sarebbe più semplice e più eroico studiare a tavolino la presa del palazzo d'inverno. Poi si potrebbe pure provare un'altra stagione, visto che d'inverno tanto bene poi non è andata. Ma insomma, voglio dire, ma non è, il tema è tutto diverso. O ci applichiamo a questo o niente. E io credo che la cultura debba essere anche questa ricerca in sé. Non è solamente una cosa separata, è la ricerca. E la dobbiamo fare questa ricerca, ci dobbiamo spendere su questo. Volevo chiedervi, siete molto incuriositi tra l'altro, quindi mi interessa veramente le vostre storie raccontate, ma mi stavo veramente chiedendo, io ho una figlia adolescente che è venuta in piazza soltanto per, appunto, per il movimento delle sardine e per il movimento di Greta, scesa, e un po' anche per il MeToo, anche per quello che vengono di movimento. Anche quello è importantissimo. Però poi mi dice che, ad esempio, proprio anche i suoi amici, di quelli che non parlano mai, è quasi, appunto, purtroppo, questo processo di leggere della politica, quasi un argomento tabù. Quindi si mobilitano su movimenti che non hanno un'etichetta, diciamo, politica, ma non riescono poi a partecipare a questa cosa. E mi sembra che questa storia, in qualche maniera, questo tema del essere movimento, di essere rappresentati, no, da due punti di vista diversi, se non ho capito male, c'è molto forte, no? Perché c'è una storia di rappresentanza e c'è una storia invece di movimento. È sempre politica, però forse con due aspetti un po'. E ora siamo in un momento di forte crisi rispetto a questa, alla rappresentanza politica. Beh, lo so che è una domanda per grande, ma dalla vostra esperienza, quali potrebbero essere, come dire, le proposte per rendere, per reincanalare in qualche maniera questa richiesta, che voi aiuto che ci sia in ogni generazione, anche in questa, anche se non lo fa vedere, verso, appunto, una rappresentanza migliore, una rappresentanza, un collegamento che ci sia, no? Per queste cose. Perché io ancora la vostra tesi è questa, ci hanno provato i grillini, ma con molta poco crema, siamo già finiti, però. Non so se sono stata chiara. Sì. Stavamo parlando delle sardine, ad esempio. Quello è un movimento che, se poi non ci fosse stato il problema del Covid, secondo me sarebbe cresciuto e si sarebbe anche strutturato in qualche modo. Anche se in quel momento il grosso problema era che avevamo un ministro dell'interno come Salvini e i decreti di sicurezza e tutto quello che hanno comportato. Io credo, ecco, nella realtà di tante comunità federate, che è un po' il meccanismo che poi guida la rete. Questa è, secondo me, è la politica di base che si dà una struttura. La forma partito non può che essere in crisi. Tra l'altro, io ho cominciato metà degli anni Ottanta sull'onda, appunto, di quello che rimaneva del movimento dell'autonomia operaia, e rispetto al PC, per esempio, noi abbiamo vissuto di racconti rispetto a quella stagione, perché io non l'ho vissuta concretamente, però da quello che si sapeva, il PC dalla metà degli anni 70 in poi, tutto quello che si muoveva alla sua sinistra era un nemico, era da distruggere, e questo ha portato anche un grosso problema. Ci sono stati 20.000 persone, compagni e compagne incarcerate in Italia. A livello europeo sicuramente è stato il paese che ha pagato più duramente in termini di repressione e carcere un movimento di trasformazione del reale. E quindi sull'onda di quello che era successo negli anni 70, il nostro referente non è mai stato un partito, e quindi la politica andava praticata nei territori, strutturandosi e poi appunto dando vita a una rete. Per qualche anno è stato attivo a Roma il coordinamento dei centri sociali, che ha fatto sì che quel movimento avesse una forza e arrivasse anche a contrattare con l'amministrazione per l'assegnazione degli spazi. Poi è andata come è andata. Sulle trattative con le istituzioni c'è tutto un capitolo, quasi sempre dagli esiti negativi. L'ultima esperienza collettiva che mi ha entusiasmata è stata quella del Teatro Valle Occupato a Roma. E anche lì è sulla trattativa con le istituzioni che si è arenato, è morto quel progetto che secondo me aveva delle grandi potenzialità. Hanno fatto la Fondazione Teatro Valle Bene Comune con personalità come Ugo Mattei, che è stato uno degli estensori dei referendum per l'acqua pubblica, e Stefano Rodotà, che è stato candidato alla presidenza della Repubblica. Insomma, eppure le istituzioni in questo sono state abili a pantanare tutto e poi si è andato morendo così. Sono due cose rispetto che mi hai suscitato del corto intervento. Una, dei giovani che sono lontani dalla politica. L'origine di questo fatto è che i giovani non immaginano un mondo diverso da questo, perché pensano che non possa esserci un mondo diverso. E la politica non è altro che la strada verso una diversità, verso un'altra cosa, no? Poi fa il percorso, quella è la politica. Se non c'è la meta e te devi giocare tutto qui ora, la politica non serve. Quindi la prima cosa che dobbiamo ricostruirsi è l'idea di un mondo diverso, di, tra virgolette, intendiamoci, un dovere che ognuno che nasce ha di lasciare questo cacchio di mondo dove si vive un pochino meglio di come l'ha trovato, voglio dire, e in questo è l'elemento centrale della cultura, quello di raccontare l'altra possibilità, di raccontare un altro immaginario, un'altra cosa che è fondamentale. L'altra questione che mi suscita è un po' ragionando anche con lui su questa questione del partito, no? Io penso che noi viviamo, ora non voglio ripetere termini abusati. Scusa la parentesi, poi tu l'hai vissuto, certo, a livello della provincia che è completamente diverso da quello cittadino, che sicuramente non ha quelle malignità che... No, no, allora, stando sull'inciso che hai fatto, l'unica cosa che è rimasta intatta dalla cultura del vecchio PC a tutto quello che ne è venuto fuori, PDS, DS e PD, è il fatto che devono distruggere a sinistra. Questa è l'unica cosa che gli è rimasta, che una, proprio questa, come allora, non hanno cambiato niente, poi hanno cambiato tante cose, ma questa non l'hanno cambiata. Però ragionare sul partito, ecco, io penso, l'ho detto senza abusare, che noi siamo sempre però nella società, voglio andare a cercare cose che nemmeno ho titolo e conoscenza sufficiente per discutere, ma insomma, siamo una società liquida, no? La bottiglia del bagnasco, la coriandolizzazione. E io credo che dentro una società liquida ci vuole un soggetto pesante, perché se no ce n'è anche. Ora, se noi ci affossiamo sull'elemento nominalistico, quello del Beppe Grillo, che è un movimento, un partito, è una cosa, che un è stato privato, per un certo momento partito privato, anche qui prescindo dai giudizi di valutazione, no? Però è stato per un momento una cosa pesante, ora non è più, si è alleggerito fondamentalmente. La realtà dei vari nuclei di resistenza sul territorio sono stati per un momento qualcosa di pesante, ora probabilmente sono più leggeri. Allora la questione non è tanto come lo chiamiamo, è come questa cosa si forma e quali sono le regole del suo stare insieme. Non parlo delle regole proprio statutarie, ma del motivo per cui tu trovi un'aggregazione, intorno a che cosa la costruisci. E io penso che noi, e io ce l'ho sta fissa, insomma, io sono un partitista, abbiamo bisogno di un grande partito, eh? E il problema è che il grande partito deve essere tutto diverso dai partiti del Novecento così abbiamo conosciuto. Deve costruire nuovi modelli di reazione, deve costruire nuove motivazioni e nuovi elementi attrattivi. Cioè uno si deve iscrivere a un partito che non può essere gli stessi motivi per cui si iscrive negli anni 50, 60 o 70, perché è diversa la realtà. I partiti, quelli che conosciamo, hanno fatto l'errore invece di rimanere uguali a se stessi e quindi di perdere nella modificazione della realtà quello che era la loro capacità attrattiva. Però l'idea che dentro la società liquida ci vuole un soggetto forte, capito? Un soggetto che sia capace di non diluirsi, ma di avere una sua idea, una sua strategia, una sua capacità di mobilitazione precisa, secondo me è la cosa che ci vuole per fare movimento, per mettere in moto le sardine, se no non capita, non è che noi possiamo aspettare, capito, che la combinazione chimica avvenga per caso, perché probabilmente avviene, ma ci vuole qualche milione di anni, così come è successo con la nascita della vita, no? Qui se non c'è il chimico che muove gli elementi, capito, il chimico nasce solamente quando c'hai una strutturazione, questo, che per me, poi dopo, tante altre cose. No, stavo ripensando adesso rispetto alla formula partito, una delle pietre tombali sulla forma partito secondo me è stato il ventennio berlusconiano, che poi ha prodotto i sottocapetti che ci sono adesso, dalla Meloni a Salvini, cioè la personalizzazione della politica, la persona che diventa il partito, poi nel momento che non c'è più la persona scompare tutto, è quello che ha mandato in crisi forse definitivamente la forma partito. L'organizzazione ci vuole, ma è un'altra cosa dalla personalizzazione, dal bisogno di una persona a riferimento. Sì. Io rifletto sul cristianesimo, io non sono credente, ma ho una grande attenzione per la storia del cristianesimo, il Vangelo, San Michele parla parecchio queste cose. Il ragionamento che faccio è che poi la sua deformazione storica ha fatto sì che anche il cristianesimo sia stato un partito videristico, no? Addirittura dal nome, Cristo come cristianesimo. Ma lì il tema non è quello della persona che ha animato quel grande movimento, è stato del bisogno fondamentale dell'essere umano di cercare, laddove si poteva e come si poteva, il principio di uguaglianza e il diritto di riconoscimento degli altri in se stessi. E quindi io penso che il cristianesimo nel suo nascere c'è stato un grande movimento rivoluzionario che poi si è chiamato Cristo, o Giovanni o Francesco, è la persona che quella condizione riesce meglio a interpretarla. Capito? Ora, quindi, ci può pure essere la persona. Il problema è che interpreti questo sentimento e che sia capace poi di farlo esplodere. Che sarebbe, poi dopo, per dirla gramscianamente, il ruolo dell'intellettuale collettivo. Che sa, c'è qualcuno ci ha pensato, voglio dire, 16 anni in carcere scriviamo tutti di quello. No. Grazie a tutti. Per chi vuole arrivare nel libro, i libri.